la versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, benvenuti alla versione di Oscar. Oggi martedì 17 di dicembre, 16:34 primi 9 secondi, abbiamo qualche secondo, qualche minuto anzi di anticipo della borsa, poi apprendete gli aggiornamenti dopo e andiamo subito al tema del giorno. Magari molti di voi si aspettano che approfondisca il dossier sui 23 rotti miliardi di euro di costi della macchina pubblica presentato ieri, però su Radio 24 ne abbiamo già parlato in diverse trasmissioni e quindi andiamo su un altro punto che dicono tutti interessa meno agli italiani, e lo capisco visto quanto morda la crisi, diminuisce il loro reddito, l'occupazione e così via. Pur tuttavia è uno dei punti centrali del caos politico che abbiamo di fronte. E ci occupiamo quindi oggi delle prospettive della riforma elettorale, tentando con un addetto ai lavori di capire quale sia la sua valutazione di ciò che è più probabile avvenga, anche se ci vuole un po' la palla di vetro, e di quale nel suo giudizio sarebbe, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, ricordate, che ha abbattuto le liste bloccate del Porcellum e il premio di maggioranza dissimile tra Camera e Senato e senza soglia minima di attribuzione, che cosa davvero possa uscire dall'attuale Parlamento. Ricordo a tutti che Matteo Renzi, appena diventato segretario del PD, ha non solo nel suo annunciato contratto con la maggioranza del governo Letta chiesto che questo punto insieme ad altri venga rapidissimamente affrontato dopo mesi di melina, ma anche ottenuto in pochissime ore che la riforma della legge elettorale, in teoria incardinata al Senato, dove però non era avvenuta nulla per mesi e mesi, venisse spostata come competenza alla Camera. Sapete che proprio per via del premio di maggioranza la composizione dei due rami del Parlamento è molto diversa. Ovviamente io chiedo a chi in ascolto se ha voglia di esprimere telefonandoci le sue opinioni di sfiducia totale o che cosa si augura o che cosa immagina che avvenga, al numero verde 800 24 00 24, ma intanto vi presento l'ospite, che è un ospite spesso ricorrente ai microfoni di Radio 24, coopera con il gruppo editoriale Sole 24 Ore, il professor Roberto Dallimonte, che insegna sistema politico italiano alla LUIS a Roma. Buongiorno e grazie professore. Buonasera. Posso chiederle innanzitutto di dire ai nostri ascoltatori qual è il suo modello prediletto, così lo facciamo come una rivelazione di conflitto di interesse al di là di tutto. Che cosa pensa che sarebbe meglio al di là di quello che è più probabile avvenga? Occorre un sistema maggioritario, sicuramente, perché proporzionale per l'Italia è il male assoluto, non è il porcello il male assoluto, è la proporzionale che ci ha dato la Corte, il male assoluto. Quindi maggioritario, nelle condizioni in cui siamo, cioè frammentazione, tripolarismo, quadripolarismo, quello che sarà il doppio turno, perché senza il doppio turno rischiamo di non avere un esito certo, netto e legittimo, e tra doppio turno di lista e doppio turno di collegio, per intenderci il modello del sindaco a costituzione vigente e il modello francese, quello dei collegi uninominali due turni, io penso che l'uno o l'altro andrebbero bene, io mi accontento dell'uno o dell'altro, ma doppio turno è secondo me la strada da battere, però mi rendo conto benissimo che è una strada difficilissima da battere, perché il centrodestra è ostile al doppio turno. Allora, adesso io inizio a fare un po' di domande sulla realtà così com'è e vediamo come lei le valuta. Ricordo sempre che abbiamo un pubblico per cui è meglio rifuggire un pochino, fuggire dai tecnicismi, sì, troppo. Esatto. No, lo facciamo, anzi. Giannino, lei mi incalzi con le domande più semplici. Allora, dice l'onorevole Brunetta, quindi stiamo parlando di Forza Italia che si è separata da NCD. In realtà è presto fatto, perché sul Mattarellum, legge elettorale precedente al Porcellum, quindi 75% uninominale di collegio e 25% proporzionale, dichiarano di essere d'accordo sia quelli di Forza Italia come Brunetta, sia quelli del 5 Stelle, sia il PD. Basterebbero poche ore e quindi la riforma sarebbe fatta. Dal suo punto di vista, Brunetti dice una cosa che è come è oppure no? Guardi, soltanto sul Movimento 5 Stelle non si può fare nessun affidamento, perché Milo ha cominciato parlando bene del Porcellum e che gli andava bene il Porcellum. Poi i suoi hanno presentato in Senato un disegno di legge a favore di un sistema proporzionale di tipo spagnolo con preferenze svizzere. Poi qualche settimana dopo la presentazione di questo progetto di legge proporzionale, Grillo parla della Mattarella, quindi Grillo è inaffidabile. L'apertura di Berlusconi sulla Mattarella potrebbe essere significativa, non che Berlusconi sia del tutto affidabile, Brunetta, su questo dovremmo andare a vedere. Ecco, secondo me la Mattarella è un second best, cioè una soluzione non ottimale, perché ho già detto prima, ritengo il doppio turno migliore per l'Italia in questo momento. Però, come dire, mi accontento anche della Mattarella, perché è comunque un sistema maggioritario, con i collegi uninominali, anche se un turno solo. Io mi accontento e credo che anche Renzi si potrebbe accontentare con qualche ritocco rispetto alla Mattarella originale, però bisogna vedere se queste sono aperture sincere o sono oppure no. E quindi mi pare che lei sia di una certa qual giustificata, almeno dal mio punto di vista, diffidenza. C'è chi osserva, sì, il Mattarellum ci ha dato non solo effetti maggioritari, ma anche alternati nelle diverse elezioni in cui si è votato con il Mattarellum, ma rispetto alla situazione dei partiti consegnati alle ultime elezioni, cioè tripolare, chiamiamola così, con Grillo al 25%, questo effetto non sarebbe più garantito, ed è forse per questo che lei dice che bisogna fare il doppio turno. È così, esattamente, o no? Io ho fatto una simulazione faticosa, perché ho preso tutti i dati di sezioni delle ultime elezioni, sono 60.000 sezioni. Ho preso quei dati lì, li ho ricalcolati sulla base dei collegi della Mattarella, cioè i 475 collegi della Camera, per simulare con i dati di febbraio cosa sarebbe successo a febbraio. Naturalmente sono simulazioni. Però, e quindi si è fatto il calcolo in ciascuno di quei 475 collegi uninominali chi avrebbe vinto al maggioritario uninominale. Esattamente, li abbiamo pubblicati su Sole 24 Ore qualche settimana fa. E senza mia sorpresa, perché me lo aspettavo, la simulazione ci ha detto che Grillo avrebbe vinto diversi colleghi e che quindi il sistema elettorale non avrebbe dato una maggioranza a nessuno. Quindi saremmo tornati anche con la Mattarella nella stessa situazione in cui siamo adesso. C'è da dire però che una volta introdotto un sistema elettorale cambiano almeno in parte anche sia l'offerta politica che il comportamento degli elettori. Quindi può essere che, essendo la Mattarella un sistema maggioritario, cambiando l'offerta politica, le coalizioni, i candidati, possa cambiare il comportamento degli elettori, e quindi l'esito del voto potrebbe essere anche maggioritario e non proporzionale. Però è tutto da vedere, mentre col doppio turno abbiamo la certezza, o quasi, col doppio turno di lista la certezza, col doppio turno di collegio, cioè il doppio turno con i collegi uninominali come in Francia, non la certezza ma un buon livello, un buon grado di probabilità che ci sarebbe una maggioranza dopo il voto. Ora, sempre più difficile per la serie, lei sa che è sembrato da proposte di parlamentari vicini a Renzi e da espliciti riferimenti che Renzi ha fatto intorno, riferendosi alla legge dei sindaci, per capire, che sommando queste non precise indicazioni si ottiene un maggioritario che a quel punto è di lista e non di collegio, e che a quel punto ha innestato sopra un secondo turno, come vorrebbe lei, corretto? Esatto, cioè il modello del sindaco nella versione originale prevede l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, quindi bisogna cambiare la Costituzione e non credo che sarà facile. Nella versione, se la chiamo da Rimonte perché questa è la mia proposta di qualche mese fa, di diversi mesi fa, prevede semplicemente un premio di maggioranza assegnato in due turni, ma le immagini una sfida Renzi-Alfano al secondo turno è in realtà un'elezione diretta del Presidente del Consiglio, anche se non è de jure ma è de facto. Quindi diciamo il modello del doppio turno di lista o di coalizione, come lo chiamano i giornali, è un modello che si avvicina molto al modello del sindaco, e comunque, e questa è la cosa più importante, un modello che dà a uno la maggioranza assoluta dei seggi in una maniera che nemmeno la Corte può eccepire. E allora, chi dice che la Corte, in realtà, con questa sentenza, siamo ancora in attesa ovviamente di conoscerne le motivazioni, quindi il dispositivo completo, ha disegnato delle preferenze, ha quale tipo di ragione rispetto alla libertà dell'attuale Parlamento? Non ho capito, scusi. Chi dice che la Corte Costituzionale in realtà ha dato delle indicazioni cassando delle parti della legge attuale, ha delle ragioni oppure la libertà del Parlamento è totale? Senta, secondo me la libertà del Parlamento è rimasta, se non totale, certo, è ancora molto ampia. Non dico totale perché che il Parlamento possa riproporre un sistema elettorale con premio di maggioranza assegnato in un turno senza soglia, ecco, questo dopo la sentenza della Corte mi sento di escluderlo, ma tutto il resto mi pare sia ancora legittimo, nonostante questa sentenza che io trovo invasiva. Io sono stato uno di quelli inorridito dalla sentenza della Corte, però questo è un altro discorso, forse non è il caso esatto di prenderlo questa sera, ma in ogni caso il Parlamento ha un amplissimo margine di manovra. Spieghi al nostro pubblico, abbiamo diversi messaggi che bisogna assolutamente essere dalla loro parte, che chiedono semplicemente di spiegare nella maniera più elementare possibile che cos'è un sistema a doppio turno, professore. Il sistema a doppio turno è un sistema in cui bisogna distinguere tra i collegi, cioè l'elezione. Prendiamo il sistema francese, o prendiamo la Mattarella, che forse i nostri ascoltatori sono più familiari con la Mattarella. Cosa fa succedere ai tempi della Mattarella? Che noi avevamo il territorio italiano diviso in 475 collegi, che non sono altro che unità territoriali, con poco più di 100.000 elettori ciascuna. 475 collegi, in ogni collegio partiti presentavano le coalizioni, presentavano i loro candidati, il candidato con un voto più degli altri otteneva il seggio, gli altri non ottenevano niente. Quindi, se noi applicassimo il principio della Corte, anche la Mattarella sarebbe forse incostituzionale, perché in ogni caso c'è uno che prende tutto senza soglia, perché chi vince con la Mattarella avrebbe potuto vincere col 20% dei voti e ottenere il seggio, gli altri zero. Ma lasciamo stare questo argomento fastidioso. Quindi 475 collegi, 475 candidati, in ogni collegio chi ha un voto più degli altri ottiene il seggio. Punto. Il seggio, quindi si può ottenere il seggio con 25, 30, 35, 40, fino al 50% più uno. Col doppio turno cosa succede? Succede che noi non vogliamo che chi vince, che si possa vincere col 35% o 25% dei voti, troppo pochi. Allora cosa si fa? Si dice che i due candidati nel collegio che hanno preso più voti, ma sotto i 50, sono più di 50 viene eletto, punto e basta, i due candidati che sono sotto i 50 ma che hanno preso più voti si sfidano in un ballottaggio. Fate cose, gli italiani dovrebbero ricordarsi che noi eleggiamo i sindaci in questo modo. Quindi i due più votanti al primo turno si sfidano in un duello, chiamiamolo così, in un secondo turno, e a quel punto uno matematicamente prenderà il 50% più uno e viene eletto. E prevale sull'altro e viene eletto. Serve. E gli elettori degli altri candidati, quelli cioè che non sono ammessi al secondo turno, dovranno decidere se andare a votare al secondo turno e per chi votare, quindi dovranno utilizzare quello che noi chiamiamo un po' tecnicamente la seconda preferenza, il second best, che è una cosa che nei vecchi partiti con fortissime appartenenze confliggeva molto, perché gli italiani non volevano, non si ritrovavano poi nel dover cambiare voto, ma insomma un po' di decenni sono passati rispetto ad allora. Adesso abbiamo il minuto di informazione stradale, poi torniamo al professor Dalimonte. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in studio, 16:50, stiamo parlando di riforma elettorale con il professor Roberto Dalimonte. Intanto sentiamo alcuni ascoltatori che hanno chiamato, cominciamo con Pietro che ci chiama dalla provincia di Modena. Prego Pietro. Buonasera. Buonasera. Dunque io mi chiedevo se era più conveniente fare la riforma elettorale oppure la riforma del sistema bicamerale prima. Va bene, allora giriamo subito la domanda al professor Dalimonte. Sentiamo ancora Domenico che ci chiama dalla provincia di Treviso invece. Prego Domenico. Buonasera. Buonasera. Volevo soltanto capire una cosa. Il Porcellum non va bene a nessuno. Beh, diciamo che è andato bene a tutti per tantissimo tempo, ma la Corte lo ha giustiziato. Ecco. Perfetto. Adesso, per conto mio, tutti quanti messi assieme, loro devono soltanto di cercare di fare il Porcellum 2, perché non si troveranno mai con una legge che può andare bene a tutti quanti. Ecco Domenico, questa è un problema di teoria dei giochi, per così dire, dal punto di vista tecnico, visto che le parti in causa sono almeno tre e l'equilibrio è molto incerto, ed è esattamente questo il motivo per cui è molto difficile capire quale sarà il punto di caduta, perché come ovvio l'incertezza su chi prevale ci ha abituato nel tempo a capire che prediligono delle riforme elettorali in cui vanno bene a chi pensa di aver già vinto, e questa è un pochino la complicazione di questo gioco da applicare. Allora, professor Dalemonte, aggiungo a queste due considerazioni dei nostri ascoltatori una terza che ha moltissimi sms che sono arrivati. Alcuni vogliono sapere se a suo giudizio, una volta pubblicato le motivazioni della Corte Costituzionale, ci sono effetti sui tanti parlamentari non convalidati. Io ricordo a tutti che il potere di convalida però sta alla Camera e parlamentare. Comunque, queste tre considerazioni e le ridò la linea. Prego, professor Dalemonte. La seconda, non l'ho capito, io sono sul cellulare, non c'è... No, la seconda dicono, in realtà delle tre parti non ce ne sono due che hanno un interesse convergente pensando di vincere insieme contro la terza, quindi è difficile immaginare come si mettano d'accordo per un porcellum due, ecco. Vabbè, lei ha già risposto, in maniera molto elegante. Infatti vada alla prima e alla terza, ecco, di considerazione. Esatto, dunque sulla prima... Dunque, aspetti, mi ricordi, perché di nuovo Giannino, sono per strada. Luca da prima mi chiedeva. Allora, cominciamo dalla terza. Il bicameralismo, esatto. Il bicameralismo perfetto. Esatto. No, assolutamente bisognerebbe, avrebbe dovuto essere stato fatto già da un sacco di tempo, ma non c'è dubbio che in un paese serio si dovrebbe riformare prima il Senato, cioè nel senso, io sono diventato monocameralista, ma insomma un Senato delle autonomie va bene, quindi sarebbe meglio procedere in questo modo, prima o contemporaneamente fare la riforma costituzionale, la riforma della legge elettorale si può fare prima perché come sappiamo è una legge ordinaria, ma entrambe le cose vanno fatte e non a caso Renzi ha posto le chiede entrambe, infatti entrambe contemporaneamente, anche se i tempi sono diversi e... assolutamente, ma il Senato va cambiato, siamo ormai l'unico, credo, ormai in paese con un bicameralismo perfetto, così non ce n'è nessuno al mondo tra gli ordinamenti, con mille tra l'altro, quindi veramente una cosa inaccettabile. La terza era, ma quando c'è, siccome c'è il problema della mancata convalida dei parlamentari, ma incide? Questo non mi entusiasma, questo discorso, anche se non sono un giurista, quindi io non credo che ci sarà nessuna ricaduta sui parlamentari non convalidati, invece ci sarà una ricaduta, una cosa che è stata posta attenzione, i governi regionali, perché la gente ha dimenticato, compreso secondo me molti dei giudici costituzionali, se non tutti, che ci sono i porcelli regionali, cioè il porcello nazionale è una cosa, ma il porcello nazionale è il duplicato di quelli regionali, sono nati prima i porcelli regionali. Toscana, tra l'altro, per esempio. No, Toscana è un altro discorso, ma sono nati dappertutto. La legge Tapparella ha introdotto il sistema maggioritario di lista un turno, cioè a dire, noi eleggiamo il presidente della regione come abbiamo fatto a febbraio con i nostri parlamentari, con la differenza che lì c'è una camera sola e quindi un presidente della regione col 30% dei voti ottiene il 55% dei seggi, non solo viene eletto lui, sì. Presidente della regione, ma ottiene anche il 55% dei seggi. E anzi in certi casi può arrivare fino al 60%, quindi tutte le regioni hanno dei sistemi elettorali che sono i porcelli, quindi la sentenza della Corte in realtà delegittima i sistemi elettorali regionali e li destabilizza. Ha fatto bene a ricordarlo. No, poi le dico un'altra cosa, una cosa inconcepibile, nei comuni sotto i 15.000 abitanti noi eleggiamo sindaco e maggioranze con un sistema ipermaggioritario, perché con un voto più degli altri tu ottieni due terzi dei seggi. Quindi di cosa stiamo parlando? Capisce? Perché sono inorridito dalla sentenza della Corte? Sì, in effetti almeno anch'io le do ragione, non posso fare a meno di darle ragione, naturalmente viviamo in un paese in cui la ragione e i torti ce li teniamo in tasca, però effettivamente ragionevolezza in tutto questo è difficile per così dire trovarla. Un'altra domanda ha a che fare invece con le possibilità per molti nostri ascoltatori che ritengono inibite comunque anche se si tornasse a Mattarellum, perché dice: ma come? E la Corte ci ha fatto capire che le liste bloccate erano sbagliate, ma noi non sceglieremo il candidato nemmeno nei collegi uninominali, quindi sarebbero sempre i segretari dei partiti a sapere in quale parte d'Italia e probabilmente vincono a eleggersi i suoi. Ma infatti, a meno che non si facciano le primarie, che diciamo con i collegi uninominali sono più facili da fare, ma se non si fanno le prime, ma non solo, ma si ricorda che i tempi di Mattarella, i candidati paracadutati di Pietro nel Mugello che non c'entrava per nulla, ma non solo di Pietro, è stato un caso emblematico, ma tantissimi candidati che venivano paracadutati in collegi sicuri, ricordo quelli di Rifondazione Comunista che venivano paracadutati in Toscana e in Emilia, no? Per farli leggere, perché altrimenti con collegi uninominali non sarebbero stati eletti da nessuna parte. Quindi, capito, di nuovo, di cosa stiamo parlando, Giannino? Capisce perché io parlo, ho detto poco fa, il Porcellum non è il male assoluto, perché noi abbiamo demonizzato, e poi dirò perché il Porcellum in realtà doveva essere cambiato, abbiamo demonizzato questo sistema elettorale, abbiamo ingenerato nella massa degli elettori, che questo fosse il male assoluto, mentre non lo è. Io aggiungo un'altra cosa, grazie alle liste bloccate noi siamo uno dei parlamenti d'Europa con più donne oggi. Eh sì, allora io la devo interrompere perché è finito il tempo e la ringrazio di essere stato didascalico. Brevissimo, due ascoltatori, primo, cos'è il bicameralismo perfetto se imperfetto? No, è perfetto perché ha piena parità di attribuzioni sia per la fiducia e sfiducia ai governi che per il processo legislativo. Continuate sulla 24, appuntamento con me a domani.